Tempo di Sport con Carlo Genta. Sicuramente uno dei motivi, insomma, che magari ci spinge anche a fare ulteriormente bene, insomma, l'anno scorso effettivamente è stata una bruttissima giornata e quest'anno cercheremo di dimenticare quel giorno e abbiamo di fronte comunque un'ottima squadra che durante l'estate ha messo su una formazione di altissimo livello, quindi sarà veramente una partita tosta. Il campionato ritorna con prepotenza. Beh, anche noi in realtà cercheremo di dimenticare questo giorno. La Domenica dello Sport è una grande festa, è sempre una grande festa e in questa grande festa in particolare la morte è un ospite insopportabile. Salutiamo così, ma senza troppe parole, perché comunque non gli sarebbero piaciute Vigor Bovolenta, un grande giocatore di pallavolo, un grande campione di pallavolo, un grande sportivo che questo sì, per motivi che ha 37 anni e su un campo di pallavolo, per uno che ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi, per uno che è stato per anni azzurro, è inspiegabile. Ebbene, da ieri non c'è più e lo salutiamo con questo ricordo, provando a dimenticare questo giorno e intanto a parlare di sport. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, una domenica di sport che si è aperta con una pepita trovata per strada, quella che ha raccolto Alonso in Malesia, naturalmente tra poco ne parleremo, in una corsa strana, stranissima, altrimenti questa Ferrari probabilmente, certamente non sarebbe riuscita ad arrivare dove è arrivata grazie al suo fuoriclasse e grazie ad un Moretto che è stato impeccabile oggi dopo tante critiche. Prima di parlare della Ferrari però un aggiornamento sulle partite di Serie A in corso in questo pomeriggio. Dario Ricci, nostro inviato al telefono di oggi, ciao Dario. Sì, buon pomeriggio Carlo, siamo intorno al 30° di gioco su tutti i campi, rapidamente i risultati: Lazio-Cagliari 0-0, Napoli in vantaggio per 2-0 sul Catania per effetto delle reti nel secondo tempo di Zemaili e Cavani, Napoli che in questo momento supererebbe proprio la Lazio al terzo posto, ma arriva il 2-1 del Catania, il 2-1 di Spolli, vi confermerò il marcatore nei prossimi istanti, ma c'è stato proprio Nicolas Spolli, calcio d'angolo del Catania dalla sinistra, il colpo di testa di Spolli all'altezza del dischetto, il calcio d'angolo dal Miron, bellissimo e imparabile il colpo di testa per De Sanctis e quindi Catania che riapre la partita. 2-1 anche per la Fiorentina sul campo del Genoa, Genoa passato in vantaggio con Belluschi e poi rimontato dalle reti di Montolivo e Natali, 0-0 tra Novara e Lecce, 2-2 tra Cesena e Parma, Santana e Del Nero le reti cesenati, Floccheri e Paletta in rete per il Parma, 1-1 tra Chievo e Siena con i Clivenzi in vantaggio con Acerbi al nono del primo tempo e poi il pareggio al sesto della ripresa di destro e poi nell'anticipo di mezzogiorno l'Atalanta ha battuto, lo ricordiamo, per 2-0 il Bologna grazie alle reti di Gabbiadini e Tiribocchi, Carlo. Grazie Dario. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire nel Tempo di Sport da ora fino alle 19 come ogni domenica. 349 238 6666 è il vostro contatto per gli sms. Vari temi che stanno emergendo dai prati del calcio aspettando Juventus-Inter di questa sera dopo aver visto ieri Super Ibrahimovic battere, il Milan naturalmente, battere in rimonta la Roma. La notizia di oggi, sgradita ovviamente al Milan, è la rinuncia a Thiago Silva per il doppio confronto con il Barcellona perché l'infortunio parla di 3-4 settimane di stop e quindi Thiago Silva non ci sarà né all'andata né al ritorno, che tra l'altro si giocano a distanza di una settimana, lesione al bicipite femorale della coscia destra per lui. Per quanto riguarda le partite che stiamo vedendo, c'è una Lazio estremamente spenta senza Miroslav Klose in casa con il Cagliari, un Napoli che come avete sentito sta vincendo la partita, è tornata in bilico contro un grande Catania, ma soprattutto un Catania che avrà da recriminare per qualche episodio, come ad esempio una spinta di Aronica su Berghessio che era un rigore piuttosto solare al 27° del primo tempo e il raddoppio di Cavani che era partito da una posizione sospetta, per non dire di fuorigioco non, non di metri, ecco, però una posizione di fuorigioco abbastanza visibile. Comunque ne parleremo poi nel dettaglio e nel commento. Intanto io vado con l'ordine di arrivo a Sepang, che è roba da stropicciarsi gli occhi. Vince Alonso davanti a Perez sulla Sauber e ad Hamilton, che aveva dominato le due giornate di prove, quarta e Webber, quindi Raikkonen, Senna di resta, Bernie, Hülkenberg e decimo Michael Schumacher. Vittoria, dicevamo, e tra poco ne parliamo con Mario Poltronieri, del pilota, del diluvio, di una gara strana e di un muretto impeccabile. Sentiamo che cosa ha detto Stefano Domenicali dopo la corsa. Abbiamo fatto il nostro dovere, adesso andiamo avanti perché sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per recuperare la prestazione, però insomma una bella carica anche per la gente a casa, quindi credo che serva a tutti per motivarli ancora di più a fare meglio, quindi avanti. E Alonso è anche in testa alla classifica piloti dopo le prime due partite, sto vedendo Napoli vicino al gol del 3-1, ma non lo c'entra, mi sono distratto. Dopo le prime due gare, Alonso 35, Hamilton 30, Button 25. A questo punto io credo che comunque la parola d'ordine debba essere vietato illudersi. Mario Poltronieri. Buongiorno a tutti, ciao Carlo, sì hai ragione, mi è stato illudersi, però diciamo insomma che è stata una corsa divertente ma strana come sono tutte le corse in cui piove per la maggior parte del tempo, perché la pioggia livella le prestazioni verso il basso, quindi le vetture più efficaci, più prestanti perdono qualche cosa mentre guadagnano, o per meglio dire si mettono vicino al livello di quelle più scadenti. Alonso però, l'hai ricordato anche tu, è un fuori classe unico, è stato bravo in partenza, è stato bravo alla ripartenza dello safety car, ha condotto la corsa in modo impeccabile, quindi diciamo che è un risultato che lui ha senz'altro meritato. E quello che dispiace è che su, diciamo, 55 punti che ha la Mercedes, 42 che ha la Red Bull, e questa è la classifica delle squadre, la Ferrari ne ha 35 che sono stati ottenuti solo da Alonso. Certo, e qui questo problema ce lo deve porre. E se lo deve porre la Ferrari, perché ha tra l'altro... Mi sembra che se lo ponga, Mario, mi sembra che insomma Massa sia come... un po' come Ranieri o un po' come Mutti, allenatore del Palermo, cioè quegli allenatori costantemente in bilico. Ma no, diciamo che Massa all'inizio andava anche bene, poi nel correre delle stagioni ha cominciato a essere uno strano personaggio, parte decentemente, magari va anche velocissimo, poi si perde nel gruppo di coda verso la fine della corsa. Quindi ma c'è una ragione perché faccio questo riferimento al secondo pilota Ferrari, perché gli altri hanno fatto i punti con tutti e due, Alonso li ha fatti per tutti. Allora, il personaggio protagonista della gara di oggi insieme ad Alonso, che è appunto Perez, è un pilota che fa parte del gruppo del Ferrari Drivers eccetera, quindi è già sotto l'occhio della Ferrari. Con questo io non voglio dire che possano portarlo via alla Sauber, che comunque sta crescendo un po' anche lei, pur essendo una vettura ancora di livello inferiore, e portarlo in una squadra competitiva come deve essere la Ferrari. Come hai detto tu, è chiaro che devono lavorare ancora molto, però comunque la gara è stata interessante anche perché ci sono stati tutti questi colpi di scena. Io credo, Mario, comunque credo su Massa che in questo momento alla Ferrari serve un pilota che sia funzionale alla crescita e che sia funzionale ad una competitività di Alonso in chiave di titolo mondiale, cioè non serve serve una seconda guida che possa aiutare nello sviluppo della macchina e comunque possa essere funzionale, delle strategie che non possono non mettere Alonso al primissimo posto nelle gerarchie. Sì, ma senza dubbio per Alonso nessuno pensa di sminuirlo. Il problema è che se Massa continua così la Ferrari non riesce a togliere punti agli altri, avere punti nel campionato costruttori, che noi trascuriamo, che in realtà le squadre interessa moltissimo perché è quello che porta soldi. Sicuro. Quindi Diciamo che questo problema la Ferrari se lo potrebbe porre, ma non so se lo può, anche per questioni contrattuali, risolvere a metà stagione. Diciamo piuttosto che questa gara ha riconfermato che la Red Bull non è più così competitiva come l'anno scorso. Sì. Le McLaren vanno bene, ma purtroppo hanno o sfortuna o una squadra ai box che ha lavorato malissimo. Sì, molto perché bene invece la squadra Ferrari oggi. La Maradona Ferrari è andata benissimo, benissimo, i tempi delle soste sono stati brevissimi. No, la Ferrari oggi ha fatto tutto bene avendo per giunta un grandissimo protagonista, perché gli altri tutto sommato in quelle condizioni non sono stati allo stesso livello, quindi oggi dovremmo dire che Alonso è meglio di Vettel, è meglio del nostro amico Button, il quale per parte sua credo abbia fatto un grande errore, perché è andato a urtare la vettura di Kvyat, che è un indiano di ritorno in Formula 1, che ha diciamo così scippato la vettura a Vito Antonio Liuzzi, l'HRMC, sì. E che quindi non è uno che ha il passo veloce, forse Button ha cercato di passarlo e ha rischiato sotto, sì, la pioggia, diciamo gli scarti laterali sono facilissimi, basta toccare un alettone e bisogna fermarsi. Certo, in quelle condizioni forse Button, che normalmente è uno che di rischi non ne corre tantissimi, poteva evitare. Ti chiedo un attimo di pazienza, Mario, per il traffico, poi vorrei fare con te due chiacchiere sul futuro, perché a questo punto insomma si diceva e si sapeva che la Ferrari avrebbe dovuto correre in difesa. Attenzione, perché c'è un gol ed è un gol importante, lo segna la Lazio e ve ne do notizia subito con Dario Ricci prima del traffico. Sì Carlo, è il gol del vantaggio della Lazio sul Cagliari al 43esimo di gioco, Diakité, c'è stato un calcio di punizione dalla tre quarti sulla sinistra, pallone sul secondo palo, Diakité bravissimo a svettare più in alto di tutti e a battere di testa Agazzi, 43esimo di gioco, Lazio 1, Cagliari 0, un gol che permette alla Lazio di difendere in questo momento il terzo posto in classifica. E di gol ce n'è un altro, lo ha segnato il Genoa che pareggia 2-2 la gara con la Fiorentina, ma ve lo raccontiamo dopo il traffico. Arrivano in questo finale di partite gol molto importanti in chiave salvezza e in chiave terzo posto, Dario Ricci. Sì, perché ci eravamo lasciati col pareggio del Genoa, Marassi contro la Fiorentina, molto bravo Gilardino a far da sponda a Palacio su un lancio dal centrocampo e poi l'argentino si incunea tra quattro difensori fiorentini e batte con un preciso rasoterra di destro Boruz sul secondo palo, ma nel frattempo è arrivato anche un gol ancora più pesante, Carlo, il 2-2 del Catania a Napoli, ancora azione di calcio d'angolo battuto magistralmente da Lodi, a centro area Zuniga prova a contrastare Lanzafame che però ha la meglio e di destro sotto misura batte ancora una volta De Sanctis, quindi al 42esimo di gioco col campo del San Paolo che vale la pena ricordarlo è qualche minuto in ritardo rispetto agli altri, è 2-2 tra Napoli e Catania. Perfetto, ci sentiamo poi per i finali, naturalmente vi daremo conto dei gol o delle situazioni importanti in tempo reale, ma volevo chiudere il discorso con Mario Poltronieri, perché dicevamo, Mario, si sapeva che la Ferrari avrebbe dovuto correre in difesa queste prime gare, che è in ritardo, che insomma si puntava sullo sbarco in Europa e queste prime 3-4 gare sarebbero state molto complicate. Ebbene, complice Alonso, complice il Tornado, complice un po' di culo, se me lo consenti, ecco che arriviamo dopo le prime due con Alonso in testa alla classifica. Questo mi sembra uno splendido segnale. Sì, è molto interessante anche per dare vita al campionato che questi ultimi anni, proprio per una certa assenza della Ferrari che è il 70% dell'interesse per quello che riguarda gli spettatori, gli ascoltatori, eccetera, si era un po' affievolito come interesse. Adesso effettivamente questa gara ha riportato l'attenzione su questo campionato e naturalmente con l'entusiasmo che viene da una Ferrari che sa di avere il pilota in questo momento indiscutibilmente più forte. Mm. Ti ringrazio Mario. A risentirsi, il 15 aprile si corre a Shanghai. Come la vedi quella corsa per la Ferrari? Beh sì, si deve progredire ed è in dubbio, ma come tracciato? Non è male, non è male, questo era peggio. questo era peggio, però il diluvio ha dato una mano. Però diciamo, se qui ha vinto, figuriamoci là. Grazie Mario, alla prossima. Ciao, ciao. Grazie a Mario Poltronieri. Dunque, siamo in pieno recupero all'Olimpico, 4 minuti di recupero concessi e 2 e mezzo sono già passati per una Lazio che, insomma, ha rovinato, Lazio e Catania che hanno rovinato i piani del Napoli di Mazzarri, che si erano arrampicati al terzo posto per qualche minuto. Dicevamo, per riepilogare, del gol di Diakité arrivato al termine peraltro di una partita molto opaca della Lazio. Attenzione, perché c'è il Cagliari che adesso preme e sbaglia un gol abbastanza clamoroso, ma c'è un fischio in questo caso di Peruzzo a fermare il gioco. Resta il fatto che una Lazio che dopo il derby aveva perso 2 partite, che oggi stava giocando piuttosto male, che ha perso Close, che sembrava un po' spompata, riesce forse a portare a casa i 3 punti contro il Cagliari, e sarebbero 3 punti fondamentali. Non fa una piega invece, se così dovesse andare a finire, il 2-2 con cui si stanno svolgendo gli ultimi minuti di Napoli-Catania, perché il Catania questa sconfitta non la meritava proprio. Dario Ricci, c'è qualcos'altro? Ma direi che vale la pena spendere qualche secondo per raccontare la doppia prodezza di Marchetti, che ha salvato di fatto il risultato all'Olimpico, perché c'è stato questo tiro dal limite proprio dai 16 metri di Ekdal, praticamente un rigore leggermente più lontano rispetto alla posizione del dischetto. Marchetti è riuscito a bloccare, intanto c'è il palo per la Lazio, palo per la Lazio, e è stato Alfaro, mi sembra, che ha colpito il palo, è mancato quindi il 2-0, ma dicevamo, Marchetti è riuscito a bloccare e a respingere il pallone e poi a salvare anche su Astori, che stava arrivando da praticamente a 3 metri dalla linea di porta. Intanto il fischio finale ed è successo della Lazio per 1-0 all'Olimpico, Carlo. Direi che la Lazio è andata strabene, perché come detto oggi ha giocato una partita molto molto modesta. Sugli altri campi invece è stata una partita molto divertente ed è ancora, penso sia finale. Dario, hai notizia di Cesena-Parma? Dovrebbe essere finale. Dovrebbe essere finale, ma ancora non è arrivata la conferma, e mentre è ufficiale che ci sono 3 minuti di recupero al San Paolo, i primi 25 secondi sono già andati via con il Napoli in forcing, che ora cerca spazio sulla destra con Cavani, ma chiude la difesa catanese. Sì, Napoli che, come dicevo, stava portando a casa 3 punti fondamentali per la sua classifica, era a un certo punto terzo della classe ed è per quanto mi riguarda è il mio pronostico per la fine del campionato, cioè il Napoli arriverà terzo, viste le condizioni della Lazio, l'assenza di Close che è pesantissimo, l'Udinese che mi sembra un po' in calo. Io credo che il Napoli sia la principale indiziata per occupare quella terza poltrona. Intanto riepiloghiamo quanto è successo sugli altri campi. 2-2 che serve a nulla al Cesena naturalmente, ma pochino anche al Parma, che resta comunque invischiato nella lotta a retrocessione in pieno. 2-2 dopo una gara con un sacco di pali traverse, di occasioni e di situazioni da gol. Sblocca Floccari dopo 40 minuti con un destro arrivando a rimorchio su un assist di Giovinco. Quindi al primo minuto della ripresa pareggia il Cesena con Santana in tapin dopo respinta di Mirante, che non trattiene un sinistro di Martigno. Del Nero, ex Brescia, torna al gol. Pensate, non segnava in Serie A, andato di mia. Mi ha fatto sorridere, non segnava in Serie A questo giocatore dal 2005, qualche annetto, ha segnato un gol bellissimo, un sinistro da 25 metri per il 2-1 del Cesena, ma poi il solito Paletta, difensore argentino col vizio del gol di Donadoni, segna il gol del 2-2 ed è finale 1-1 tra Chievo e Siena con il gol di Acerbi in mischia. Dopo una traversa colpita da Andreolli al nono, al sesto della ripresa pareggia destro che salta anche Sorrentino dopo essere stato servito da un avversario, cioè il clivense Bradley. Quindi c'è questo Genoa-Fiorentina che era uno spareggio salvezza a tutti gli effetti, 2-2 con Belluschi che segna dopo 20 minuti su cross da destra in corsa di Mesto, molto bello, il pareggio al 31esimo di Montolivo a deviare un tiro di Vargas con proteste ingiustificate da parte dei genoani per la posizione di Montolivo, che in realtà era regolare. Natalia al 24esimo di testa porta in vantaggio la Fiorentina su una situazione di calcio d'angolo dopo una spizzata di Veloso, il gol che vi ha raccontato prima Dario Ricci di Palacio al 45esimo, quindi proprio allo scadere. Al 43esimo invece segna la Lazio con Diakité e rimane terza in classifica da sola al momento. Si sta ancora giocando su due campi, chiedo conferma a Dario Ricci, e sono Napoli e Novara. Sì, Napoli ultimi 30 secondi di gioco, mentre in questo istante è finita Novara, Novara-Lecce 0-0, con il Novara che proprio nell'ultimo minuto di gioco ha colpito prima la traversa con Morimoto e poi fallito una grande occasione da rete con Caracciolo, ma è stato bravo in quell'occasione il portiere del Lecce Petrachi, entrato nell'intervallo tra l'altro al posto dell'infortunato Benassi, a chiudere lo spazio della porta proprio all'attaccante novarese. Finita intanto anche al San Paolo 2-2 tra Napoli e Catania, Carlo. Perfetto, io ringrazio Dario Ricci. Dunque in questo pomeriggio vi, oltre all'Atalanta che ha battuto 2-0 il Bologna nell'anticipo dell'ora di pranzo, vince soltanto la Lazio, tutti gli altri sono pareggi. Tanto presidente della Ferrari Luca di Montezemolo parla di adrenalina scrivendo sul sito della Rosso: sono molto contento per questa vittoria Jesse Punk, c'era la pioggia ma alla fine per noi è arrivato il sole, c'è ancora tanto da lavorare, ma questo successo ci dà quell'adrenalina in più che ci voleva in un momento come questo. Così il presidente Montezemolo dopo la vittoria di Alonso. Ma torniamo sui campi di calcio per riepilogare ciò che è successo in questo pomeriggio e in attesa di vedere come va a finire questa sera Juventus-Inter, una Juventus-Inter nella quale Ranieri ha giustamente spostato tutta la pressione sui bianconeri dalla sua panchina così traballante, e sulla Juventus ieri sera altra pressione l'ha messa naturalmente Zlatan Ibrahimovic, dando altre due risposte a tutti quelli che dicono ma in fondo il Milan di Ibra può anche fare a meno, ma quando, ma dove? Dunque oggi pomeriggio sui campi Atalanta batte Bologna 2-0 nella gara di apertura del programma, e poi più tardi Cesena-Parma 2-2, un pareggio che al Cesena non serve a nulla, rimane ultimo e praticamente spacciato. Vantaggio del Parma con Floccari dopo 40 minuti, il pareggio di Santana al primo della ripresa, il bel gol di Del Nero per il 2-1 del Cesena all'ottavo, e il definitivo pareggio di Paletta al sedicesimo. 1-1 tra Chievo e Siena, prima Acerbi al nono per il Chievo, e il pareggio di Destro al sesto della ripresa. Era spareggio salvezza tra due nobili che non se la stanno passando affatto bene, ed è finito 2-2 anche in questo caso tra Genoa e Fiorentina, con i Grifoni in vantaggio con Belluschi al ventesimo di testa su cross di Mesto, e il pareggio di Montolivo al 31esimo del primo tempo, anche, ricordo le contestazioni peraltro ingiustificate dei genoani, perché discutevano su una posizione di Montolivo che in realtà era perfettamente in gioco. Fiorentina in vantaggio al 24esimo con Natali, e il pareggio definitivo di Palacio proprio al 90esimo. La Lazio se la cava con il Cagliari dopo due sconfitte consecutive e dopo che per un pugno di minuti aveva perso il terzo posto a vantaggio del Napoli. Lazio che passa al 43esimo della ripresa con un gol di testa di Diakité, partita però grigia, ripeto, degli uomini di Reia. Il Napoli pareggia 2-2 con il Catania, che nulla ruba certamente oggi al San Paolo, anzi qualcosa avrà da recriminare per l'arbitraggio di Gervasoni, che nega un rigore piuttosto netto al 27esimo del primo tempo, spinta di Aronica su Berghessio. Napoli che passa con il gol più bello di giornata, io credo, 16esimo della ripresa, Gemaili destro da almeno 25 metri all'incrocio dei pali. Quindi al 22esimo raddoppia Cavani, che parte però in posizione sospetta di fuorigioco. Prima fuga solitaria, prima colpisce il palo, gli funziona bene al rimpallo e segna in tappino il gol del 2-0, ma poi c'è la rimonta catanese, 29esimo segna Spolli di testa su corner di Almiron, e al 40esimo in mischia, sempre su azione di calcio d'angolo, pareggia Lanzafame 2-2, ed è giusto così. 0-0 tra Novara e Lecce, altro pareggio che non serve assolutamente a nulla al Novara, che dal suo penultimo posto doveva cercare a tutti i costi di vincere questa gara, ma serve pochino anche a Lecce, che resta comunque terz'ultimo e non accorcia le distanze sul Parma. Classifica che quindi, aspettando Juventus-Inter, dice Milan 63, Juventus 56, Lazio 51, Napoli e Udinese 48, Roma 44, Catania 42, Inter 41, Atalanta 37, Palermo, Chievo e Bologna 36 punti. Quindi a 34 troviamo Cagliari e Genoa, a 33 Fiorentina e Siena, a 32 c'è il Parma, quindi inizia la zona rossa, con il Lecce che ha 27 punti, il Novara 24 e il Cesena 18. Questo il quadro. Io comincio con piacere a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde, Roberto da Tortona è il primo. Sì, buonasera signor Zeta, grazie per avermi richiamato. Ma grazie a lei. Ascolti, a me sembra che sia chiaramente passato inosservato il fatto che il rigore del Milan sia inesistente, il rigore di ieri sera. Non tanto per il fallo di mano di De Rossi plateale, quanto nell'azione c'è un chiaro fallo a gamba tesa di El Shaarawy su Heinz, o sbaglio? Proteste di Heinz vibranti, ci poteva stare. Ci poteva stare. La regola dice che si avvantaggia la difesa, tutte e due a gamba tesa, dunque, dà punizione a chi difende, o dunque, sbaglio? No, ha ragione, ma dunque il Milan ha vinto grazie all'arbitro, secondo lei? Per me sì, ieri sera ha vinto grazie all'arbitro, o sbaglio? Scusi se mi ripeto. No, non sbaglia, però secondo me ha vinto grazie ad Ibrahimovic, poi io scommetto che lei è juventino. No, io sono interista, interista. Sono interista, guardi, e anche sfegatato direi, quindi non ho nessun interesse a tenere su la Juve. Non ha nessun interesse di partito a tenere su la Juventus, però le è sembrato che la vittoria del Milan sia stata irregolare. Ma io a leggere il complesso della partita ho visto un Milan che ha giocato meglio della Roma. Poi sappiamo bene che di questi episodi ce ne sono tanti, Roberto. Io mi limito a notare nel quadro generale che Ibrahimovic è un giocatore che è l'unico giocatore che da solo fa la differenza. Io credo che, non so se lei è d'accordo con me, la vera differenza, visto che lei non è parte in causa ma è in questo caso tra molte virgolette neutrale, io credo che la vera differenza tra il Milan e la Juventus sia soltanto Zlatan Ibrahimovic. Sono d'accordo, però ieri l'arbitro ha favorito il Milan ed è passato inosservato, l'hanno solo detto a Sky, non ha detto niente a nessuno. Beh, anzi qualcosa da dire ce l'aveva per la verità in quel momento. Però non è, mi scusi la parola, non l'ha cagato nessuno. No, non l'ha cagato nessuno, anzi. De Marco stasera a Torino come lo vede? De Marco? Ma guardi, secondo me è un buon arbitro. Sì. Secondo me è uno dei meno peggio, pensi lei. Poi vediamo, io credo che stasera sarà, grazie Roberto, torni a trovarci, credo che sarà comunque una partita piena di tensione quella di questa sera per molti motivi, al di là del pregresso, del passato, dei vecchi rancori eccetera eccetera, sarà una partita piena di tensioni perché è chiaro che l'Inter non può sbracare. Io penso che, torno a ripetere quanto dicevo domenica scorsa, l'obiettivo realistico dell'Inter in questa stagione, non raccontiamoci palle, non può essere terzo posto, che ormai è lontano 10 punti e ci sono davanti una montagna di squadre compreso il Catania. Non può essere terzo posto, può essere quello di chiudere il campionato in maniera decente ed onorevole, e quindi stasera l'Inter le sue pressioni le ha addosso a Torino, però credo che Ranieri non abbia torto nel dire che quella che rischia di più nella gara di questa sera è la Juve, che si trova a questo punto a 7 punti dal Milan e non può sbagliare questa partita. Poi il Milan deve vincere questa partita e poi mettersi alla finestra, perché a quel punto il Milan, perso Thiago Silva, vi ripeto, per 3-4 settimane per l'infortunio che ha avuto, la diagnosi dopo la risonanza magnetica, lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, la prognosi è di 3-4 settimane salvo complicazioni, quindi ho l'impressione che Thiago Silva starà fuori un mese, salterà le due partite con il Barcellona. Il Milan si tufferà in un tour de force lungo una settimana, le due gare con il Barcellona e la partita del sabato di Pasqua, quindi sarà un momento particolarmente stressante e delicato per i rossoneri. Morale, la Juventus non può permettersi di sbagliare la partita di questa sera. Tanto la campagna del nord è cominciata, del ciclismo naturalmente, la stagione è entrata nel vivo. Oggi c'era uno di questi monumenti del nord, la Gambe Velgem, che è stata vinta dal belga Tom Bonen per il secondo anno consecutivo. Io saluto e ringrazio il mio amico Andrea Sorrentini, inviato di Repubblica. Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, in viaggio per Torino. Immaginavo. Una bella giornata di sole. Immaginavo. No, c'è chi dice già tra gli ascoltatori che insomma il Milan ieri sera ha vinto per Mazzoleni che non ha fischiato la gamba tesa su Heinz. Io resto dell'idea che abbia vinto per Ibrahimovic. Ma guarda, questo è un discorso molto antipatico. Purtroppo la maggior parte delle persone che seguono il calcio, leggono il calcio in base agli episodi arbitrali, non è colpa loro, è stato insegnato loro, sì, così a sbriciolare le partite in 100.000 episodi, esatto, da una cattiva informazione, polverizzarle, sì, esatto, e soprattutto a dare molta più importanza agli errori dell'arbitro che a quelli di un difensore o di un attaccante. Io penso che ad esempio ieri il Milan abbia vinto anche grazie a Kier che ha regalato il 2-1, e anche grazie a Ibrahimovic, come dicevi tu, grazie a Boateng che ha dato grossa solidità e vivacità al centrocampo. Insomma, il Milan ha vinto per tutta una serie di motivi. Il rigore secondo me non è neanche un'invenzione, perché ne abbiamo visti di concedere a decine di quel tipo, quindi non c'entrano gli episodi arbitrali, c'entra che il Milan era superiore a una Roma che è ancora troppo leggerina davanti e dietro, forse anche nella mentalità, e nella mentalità che poi è tutta in quell'errore di Totti con la porta quasi spalancata quando ha cercato di fare un pallonetto anziché tirare. Quindi è una partita che il Milan ha vinto meritatamente come tante altre, anche perché ha il giocatore più forte del campionato, e adesso la Juve stasera ha tutta la pressione addosso, e c'è questa Inter che per la prima volta dopo tanti anni vive un po' in questo suo limbo della squadra che non ha grandi obiettivi davanti, ma può combinare uno scherzo atrocissimo ai rivali di sempre. È un po' questa la chiave di questa vigilia, credo. E fare un favore colossale al Milan. Io continuo a pensare che la differenza vera tra il Milan e la Juventus sia proprio Ibrahimovic e nient'altro. Sì, nel racconto del campionato non possiamo che dire questo, perché la differenza la fa Ibrahimovic, perché fa i gol che servono al Milan per vincere le partite, le stesse partite che magari la Juve fa fatica, esatto, a vincere. Infatti non ne ha vinte tantissime, perché ne ha pareggiate 14, è tutto lì, chiaro. Però abbiamo ancora un mese e mezzo di campionato, 9 partite, 10 per la Juve, c'è questa Champions di mezzo per il Milan che potrebbe segnare profondamente la squadra di Allegri, quindi vediamo un po'. Certo che se stasera ad esempio la Juve dovesse scivolare di brutto e, come vagheggiano gli interisti, perdere addirittura l'imbattibilità sul proprio campo e rimanesse a meno 7, beh, insomma, comincerebbe a essere un vallo non da poco, 7 punti di differenza del Milan, sì, a 9 giornate dalla fine. Sì, e al Milan farebbe un gran piacere avere questi 7 punti di vantaggio prima di entrare in un tritacarne che lo porterà a giocare le due famose partite con il Barcellona senza Thiago Silva, e in mezzo una trasferta a Catania di sabato che è tutt'altro che leggera. Esatto, e poi ne parleremo più in là, ma chissà quanto peserà sul prosieguo della stagione del Milan il pazzesco errore di Allegri, questo si può dire, del rischiare Thiago Silva ieri, sì, in precarie condizioni fisiche. Insomma, sono errori che a volte possono anche costare moltissimo. Vedremo se il Milan riuscirà a limitare i danni, però giocare due partite contro il Barcellona senza Thiago Silva io credo che sia abbastanza una mission impossible a, sì, questo punto, perché una puoi anche farcela, ma due... Sì, sono d'accordo. Due non credo. Per chiudere sull'Inter, ieri Ranieri ha fatto bene a mettere pressione addosso alla Juventus, cioè ha detto la verità sostanzialmente, cioè la grande pressione è addosso loro, però è evidente che l'Inter, tu dicevi, non ha grandi obiettivi, però io aggiungo, non può permettersi di chiudere sbracando questa stagione, quindi credo che con un po' di pressione a Torino ci vada anche l'Inter. No, la pressione nel caso in cui calasse, ha pensato Moratti a farla alzare in settimana andando a fare una visitina ad hoc al campo, perché è chiaro che l'Inter non può permettersi adesso di mollare tutto. C'è addirittura ancora una vaghissima possibilità di arrivare in Champions League se si inanellasse un filotto di vittorie consecutive. Quindi sì, ma questa mi sembra a livello delle favole di Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie, perché ha davanti una montagna di squadre, esatto, di squadre, compreso il Catania, con pieno merito, e io pronostico Napoli, nonostante oggi abbia buttato, certo, via un'occasione, però certo, tutto può succedere, lo sappiamo bene, Andrea. Sì, ripeto, l'Inter dovrebbe iniziare un filotto di vittorie consecutive come quelle di dicembre e gennaio. Mi sembra difficile perché l'ultima Inter mi è sembrata una squadra in cui ormai non c'è neanche più un discorso psicologico da fare, c'è proprio un discorso fisico. È una squadra davvero svuotata in modo preoccupante di energie, lo si vede nei secondi tempi. Quindi ecco, o si risollevano di colpo, oppure anche stasera, al di là delle suggestioni poi psicologiche o cabalistiche, anche stasera l'Inter parte molto sfavorita di fronte a una Juve che ad esempio nei supplementari contro il Milan in settimana in Coppa Italia mi ha molto impressionato proprio sul piano atletico, quindi così mi sembra un confronto piuttosto sbilanciato comunque sì. Lo si vede prima di quella cosa bellissima quanto ridicola del balletto tra Galliani e Marotta, no, ho vinto io, hai perso tu perché le partite durano 90, cioè, quella è stata comica, eh? Cioè ci vuole veramente tutta per tirar fuori storie di questo tipo. È un corpo a corpo, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, ormai è un corpo a corpo, è proprio un viluppo laocontico quello del Milan e della Juve, quindi non si sprecceranno più, temo. Sì, speriamo, speriamo. Grazie Andrea, buon viaggio. A voi. Grazie ad Andrea Sorrentino. Sì, Paolo da Prato, lei ha ragione nello scrivere via SMS, perché è una notizia importante, l'Inter ha vinto ai rigori la Champions League a livello giovanile contro l'Ajax, la finale si giocava oggi, però questo è un discorso interessante che faremo dopo e che abbiamo in parte iniziato a fare ieri con Andrea Zorzi, perché si parla molto in maniera anche populista, come ha sottolineato Sconcerti ieri su Corriere della Sera, di impiego dei giovani. Tutti vogliono i giovani in campo, però attenzione, dice Sconcerti, scrive Sconcerti, io sono d'accordo, alla fine vinci con i campioni, perché è vero che i giovani ti costano di meno, però vinci con Ibrahimovic, vinci con Cristiano Ronaldo, vinci ad alto livello con giocatori di questo tipo qui. È interessante invece notare come negli ultimi anni tutte le grandi abbiano versato risorse e provato a ricostituire, a ricostruire i loro settori giovanili, tanto che sono tornate tutte le grandi a dominare in campo nazionale e internazionale a livello giovanile, dopo anni in cui gli scudetti e le Coppe Italia Primavera andavano all'Atalanta, andavano al Chievo, andavano alla Sampdoria. Vedo Vincenzo Montella con Sky, proviamo a sentire se riusciamo a individuare una battuta di Montella. Abbiamo fatto più della metà dei gol su palla inattiva, perché comunque gli attaccanti, pur lavorando tanto, qualche gol lo sbagliano. Sì, lavorano tanto, come hai detto bene te, e talvolta sbagliamo spesso, tra l'altro sbagliamo l'ultimo passaggio, però non si può dire nulla a questa squadra. Io tra l'altro ho detto che il primo tempo è stata una partita equilibrata, abbiamo un leggero possesso palla noi contro un Napoli, ripeto, che lotta per il terzo posto e si conosce benissimo il livello del Napoli. È stata secondo me una partita equilibrata, con un risultato sostanzialmente giusto, anche se saremmo potuti andare in vantaggio noi e magari sarebbe stata un'altra partita, come si dice sempre. Il Napoli su 2-0 e su 2-1 ha avuto occasioni importanti dove siamo stati anche un po' fortunati, ma il calcio è questo. Ma lei aveva predetto, il calcio è questo, però credo che nella sostanza sia un risultato giusto. Condivido l'analisi di Montella, mi sembra molto lucida. Marina, da Cesena. Sì, buonasera. Buonasera, è un piacere. Allora, io sono una tifosa milanista, premetto sì. Questo, però al di là di quello non sono d'accordo con lei sul fatto che la differenza tra il Milan e la Juve la faccia solamente Ibrahimovic. Perché forse in questo momento, ma nemmeno poi, perché come organico togliamo tutti i giocatori assenti nel Milan e considerando che devono giocare sempre quelli, non possono riposare, gli infortuni, sì, non c'è paragone, è come aspetti. Dire togliere alla Juve Pirlo, Buffon, Chiellini e Barzagli, solo quattro. Lo so, ma attenzione Marina, però il Milan è più forte come organico, è più profondo certamente come organico e come qualità. La Juventus ha strameritato di essere dov'è, gioca un calcio molto, molto intenso, gioca un calcio anche bello, molto organizzato, e alla fine, se andiamo a guardare, la differenza qual è? Proprio in termini numerici, quelle partite che la Juventus non è riuscita a sbloccare e a vincere perché manca il campionissimo, e quelle partite che il Milan invece, nelle quali il Milan rischiava di restare insabbiato e dalle quali Ibrahimovic quasi da solo l'ha sempre tirato fuori. sì, questo è sicuro, è sicuro, però ogni grande squadra poi è un po' costruita su un campione, ripeto, come la Juventus adesso quest'anno con Pirlo, è così un po' per tutte le squadre, come dire, molte partite le ha risolte Messi da solo al Barcellona, o cioè, solo che loro magari ne hanno di più, la Juve ha molti meno giocatori così forti e determinanti, però probabilmente sarebbe il Milan adesso a non essere nella posizione in cui è, secondo me almeno sarebbe molti punti più avanti, almeno in Italia, con i titolari, con il turnover, con meno infortuni, eccetera. Io sì, solo questo volevo dire. Marina, ma lei ha ragione, io continuo a ripetere che dall'inizio della stagione che il Milan è la squadra più forte d'Italia ed è la candidata numero uno al titolo. La Juventus si è conquistata il primo posto sotto la finestra, perché se il Milan decide di non vincere, non riesce a vincere questo scudetto, la Juventus è lì ad acchiapparlo, ed è questo il suo grande merito, con una squadra, ripeto, inferiore dal punto di vista dell'organico e della qualità. Piero, Trieste. Pronto? Pronto? Salve. Sono dica. Io? E lei? Buonasera. Buonasera. Niente, io volevo, se mi è permesso, spendere due parole sulla Roma, già che sono anche un tifoso della Roma, e sentire anche il suo parere, ecco, su questa squadra. Io dico la verità, andrò forse un po' controcorrente, ma sono davvero contento, quasi entusiasta di questo nuovo corso che ha preso la Roma e di Luis Enrique. E certo, non so, mi rendo conto, i risultati non vengono, ci sono degli errori clamorosi da squadra di Serie C, però vedo che la strada, secondo me, è quella giusta, perché ci sono giovani interessanti. Sì. È certamente una strada, non so se sia giusta, è certamente una strada interessante, Piero. Dicevamo prima con Andrea Sorrentino, e condivido, che la Roma è ancora un po' leggerina, no? Anche nella mentalità, se vogliamo, però certamente è una squadra sui generis, è una squadra interessante che ha dei giovani. Pjanić a me piace da morire, la Mela mi sembra ancora uno splendido prospetto, su Osvaldo mi sono sbagliato completamente perché a me non è mai piaciuto, ma si sta confermando un signor attaccante in questa stagione. Totti alla fine vede anche lei, Luis Enrique all'inizio ci ha provato, poi ha capito che a Roma il capitano deve giocare per decreto, e quindi anche quando non è in condizione, come palesemente in questo periodo, come palesemente ieri, Totti gioca e la Roma alla fine qualcosa paga. È certamente una strada interessante, che sia quella giusta io credo lo scopriremo tra un po'. La ringrazio molto, Piero. Voglio sentire, prima di fermarmi, Cavani, cosa ha detto a bordo campo a Sky. Se no non si arriva da nessuna parte, niente. Adesso io credo che andiamo con un sapore amaro, perché io credo che la partita si era messa dalla nostra parte. Previsto, così è il calcio e si deve continuare a lavorare. Mancanza di voglia di vincere, hai visto un calo quindi generale del Napoli? Sì, un calo di tensione abbiamo avuto e niente, adesso finita la partita dobbiamo guardare avanti e preparare la prossima partita al 100%. Questo risultato complica la corsa Champions? No, per niente, noi dobbiamo continuare a lavorare, perché abbiamo visto, appena si molla il calcio così. Paghi, quindi si deve continuare a lavorare e a lottare per quel nuovo obiettivo che abbiamo, che è cercare di arrivare nei primi posti per andare in Champions. Lo sta dicendo Mazzarri a Sky? Calcio fino a che la partita non è chiusa 4-0 addirittura. Io questa frase a Mazzarri gliel'ho sentita 5 dire alla fine. Negli ultimi due anni almeno 20 volte, quando più arrabbiato, quando più sereno, veramente tante volte è una specie di tallone d'Achille che continua a riemergere. Billy, stavi per intervenire perché sulla difesa proprio, sulla... Sì, perché le cose che... Beh, Napoli oggi non serve nemmeno l'analisi di Costa Curta per capire che il Napoli oggi non ha giocato una grande partita, che il Catania non ha certamente rubato nulla con questo 2-2, anzi io sono convinto che Montella esca da San Paolo con qualche rimpianto. Però intanto saluto e ringrazio la penna del calcio sulla Gazzetta, Alberto Cerruti. Ciao Alberto. Ciao carissimo, buona domenica a tutti. Mi sono beccato delle bacchettate sulle dita dalla signora Marina di Cesena prima, un'ascoltatrice, anzi ne approfitto per invitare gli ascoltatori che vorranno intervenire anche a bacchettarmi, 800 24 00 24, numero verde, perché ho detto che insomma la differenza vera tra il Milan e la Juventus è Ibrahimovic. Cioè, io vedo solo quella. Beh, non merita ti becca sbacchettate sulle dita. Insomma, Ibrahimovic è l'uomo che fa la differenza in qualsiasi squadra nel campionato italiano, e sottolineo campionato italiano perché non fa la differenza nella Champions League. Sì, adesso ha la grande occasione, anche se mi sembra davvero un Milan, anche senza Thiago Silva, mi sembra veramente un Milan non in grado di competere con il Barcellona. A livello tecnico il Milan è chiuso dal pronostico, bisogna sperare in qualche colpo di fortuna, perché la fortuna, gli episodi, i dettagli nella Champions League sono fondamentali, e non dimentichiamo che il Milan potrebbe anche qualificarsi con due pareggi. Io penso che il Milan debba fare intanto una buona partita, però debba sperare che succeda qualcosa di imprevedibile, un arbitraggio favorevole. In fondo l'Inter 2 anni fa passò con il Barcellona, o forse una grande notte di Ibra, è davvero impossibile. Una grande notte di Abbiati e di altri giocatori, perché le grandi imprese del Milan contro il Manchester United, quando vinse la Champions League, fu l'impresa di tutta la squadra, non soltanto di Kakà. Ricordo un grandissimo Gattuso, un grandissimo Pirlo, quindi in Champions League Ibra da solo non basta. No, non è mai bastato in realtà. Un Ibra anche politico ieri sera, se vogliamo. Troppi infortuni, bisogna cominciare qualcosa da cambiare. Ma è la verità, soltanto che io credo che un giocatore non debba dire queste cose. Ibra fa benissimo fare l'attaccante. Le decisioni e i commenti sugli aspetti che vanno al di là del campo, credo che ci siano altre persone che debbano preoccuparsi. Ma sei convinto anche tu che ieri Allegri abbia fatto un errore grave nel rischiare Thiago Silva, che tutti sapevano non stava bene? Beh, se ha fatto un errore lui, l'ha fatto anche il medico, perché non credo che Allegri abbia deciso da solo. Sì. C'è un responsabile medico, c'è il giocatore stesso che dice io sono pronto, e quindi se davvero è una colpa da dividere tra più persone. Sì. La Roma che impressione ti fa invece? Non mi ha fatto una buona impressione, perché la Roma nel primo tempo ha sempre subito il Milan, ha tirato in porta soltanto una volta con Osvaldo, ha concesso molto al Milan, e soprattutto non mi ha fatto una buona impressione, perché se Lamela è un grande giocatore deve essere titolare, se Pjanic è un grande giocatore deve essere titolare. Questi cambi continui di formazione non danno sicurezza alla squadra, e non c'era alcun motivo ieri per stravolgere la squadra inserendo per esempio Marchigno, che è appena arrivato. Sono d'accordo, questo è un vizio di Luis Enrique che deve correggere sulla via del grande allenatore che vuole diventare e che magari crede anche già di essere, questo non lo so. Invece questa sera immagino molta tensione a Torino per i soliti barbosi motivi, ma anche perché è davvero una partita cruciale per la Juventus. Sì, è cruciale per la Juventus, non certamente per l'Inter, perché se la Juventus questa sera si trovasse a 6 punti dal Milan, o peggio ancora a 7, credo che gli stessi tifosi della Juventus, a cominciare da Conte, non spererebbero più nello scudetto. Quindi immagino che la Juventus andrà in campo con molta tensione, e mi auguro con tutto il cuore che a fine partita non si parli dell'arbitro, che ci sia un risultato chiaro, netto, in un senso o nell'altro, ma che non ci siano recriminazioni, che non si parli di rigori dati e non dati, perché non ne abbiamo assolutamente bisogno di altre polemiche. Mi associo assolutamente al tuo augurio, anche se mi sembra una Juventus pronta comunque per giocare una grande partita. Nelle ultime uscite è stata una Juventus convincente, a differenza di un Inter che, dicevo prima, non ha niente da difendere se non l'onore, che pure è una cosa importante in questa stagione. Ma in un certo senso è un po' come parlare di Milan e Barcellona, c'è un netto favorito questa sera che è la Juventus, è una squadra che sta bene, che ha motivazioni, che ha fame. Dall'altra parte c'è una squadra nettamente inferiore, anche perché l'Inter è a fine ciclo, come ormai hanno detto tutti. Il calcio in una partita è sempre strano, quindi è difficile dare per scontata la vittoria della Juventus. Però se le cose vanno normalmente, la Juventus vince questa sera la partita. Ecco, mi chiedo che cosa possa succedere per far vincere l'Inter, o almeno per farla pareggiare. Grazie Alberto, buon grazie viaggio, a voi, buona domenica. Grazie ad Alberto Cerruti. Io torno agli ascoltatori, ma prima mi piacerebbe sentire una battuta di Rocchi, capitano della Lazio. Il ritmo, penso di aver fatto una buona gara, di aver avuto delle occasioni magari non limpide, però penso che posso anche fare gol su alcune di quelle, quindi penso che giocando, allenandomi, ho fatto un po' fatica magari il fatto che non giocavo da tanto, però sono abbastanza soddisfatto, ecco, della partita. Ilaria. Rocchi. Così, allora, così qui dice Rocchi, che è il sostituto di Klose. Io nel complesso comunque oggi ho visto una Lazio grigia cui è andata di stralusso, perché quel gol di Diakité un po' trovato di testa sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti con la difesa del Cagliari messa non benissimo in quella circostanza, eccetera eccetera, beh, oggi la Lazio è andata di stralusso perché dopo due sconfitte non ha certo giocato una grande gara oggi. Ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, Simone da Verona e poi andrà da Milano. Simone, dica, buonasera. Buonasera, sono Simone da Verona, volevo farle una domanda. Prego. Volevo chiederle se in vista della partita Milan-Barcellona di Coppa Campioni, quante energie fisiche e mentali il Milan sicuramente dovrà utilizzare per affrontare la partita più difficile, e se queste avranno ripercussioni sul campionato, permettendo alla Juve di recuperare punti e eventualmente arrivare a una volata scudetto, diciamo tra virgolette in posizione forse di vantaggio mentale e fisico nei confronti del Milan, se nell'eventualità, come sembra aver capito sia anche la vostra posizione che anche la mia, il Barcellona parte nettamente favorito, sapendo tutti che nelle partite secche il Barcellona ultimamente, negli ultimi anni, lo dimostra anche contro la Madrid, non ha mai sbagliato un colpo. Sì, ma guardi, Simone, più che dargli io la risposta, ce la darà la partita di questa sera a Torino, perché è una partita che la Juventus deve vincere ad ogni costo proprio per rispondere a lei. Il Milan sta per, io credo che questo sia il momento decisivo della stagione, il Milan sta per entrare in una, insomma, in 10 giorni difficilissimi in cui avrà il Barcellona, come sapete, poi sabato una trasferta a Catania, e il Catania è una delle squadre più in forma del campionato, basta anche guardare soltanto la gara di oggi a Napoli, poi avrà di nuovo Barcellona e poi nel sabato di Pasqua ci sarà Milan-Genoa, con il Genoa pericolante. Mi sembra un ciclo che richiede appunto un sacco di energie fisiche e mentali, mi sembra il momento chiave della stagione per i rossoneri. La Juventus deve a questo punto fare il suo compito, che è quella di rimanere in scia, perché è chiaro che se perde la partita di questa sera, beh, insomma, il Milan va incontro a questo ciclo terribile con il cuore un po' più leggero. Correggo quanto detto prima sul ciclo che aspetta il Milan. Nel sabato di Pasqua l'avversario non sarà il Genoa, ma la Fiorentina. Dato curiosamente Genoa e Fiorentina si sono affrontate oggi, ma il discorso non cambia di una virgola. Questo è il momento più delicato della stagione rossonera. E toccherà alla Juventus provare a mantenere la pressione sul Milan in chiave scudetto. Andrea, Milano, buonasera. Ah, buonasera, dottor Genta. Senta, la prima è una battuta scherzosa riguardo un intervento di prima, quello dell'interista che aveva detto che il Milan ha vinto grazie all'arbitro. Sì. Ecco, forse varrebbe la pena anche per la vostra trasmissione, come la Zanzara, introdurre il trattamento sanitario, perché francamente dire che il Milan ieri sera ha vinto grazie all'arbitro, ha vinto grazie a Ibra, però grazie all'arbitro francamente non mi sembra. E poi una cosa velocissima su Thiago Silva, secondo me... Andrea, non ha vinto grazie all'arbitro, quello era fa la gamba tesa del Sharawi, a parlare di questi episodi e a sbriciolare le partite, a polverizzare le partite in centinaia di questi episodi, perché ce ne sono centinaia, no, decine di sicuro, allora si fa lunga, diventa lunga. Infatti, ma era solo una battuta per riallacciarmi. Ci sta. Senta, e poi le voglio dire una cosa velocissima su Thiago Silva. Secondo me Allegri e la società hanno fatto benissimo a rischiarlo ieri, perché la partita con la Roma è molto più importante, comunque era molto più importante quella col Barcellona. Il Milan col Barcellona, io sono un milanista sfegatato, ma non ha nessuna possibilità di passare. Ah, e lei lo sa, dice... anche la società, lo sa anche la società, ha detto costi benefici, rischiamo Thiago Silva con la Roma, una partita importante, tanto col Barcellona ha meno di miracoli calcistici. Ho capito, però se inseguiamo quel miracolo, che mi sembrerebbe discretamente importante, se inseguiamo quel miracolo, Thiago Silva serve, No, ma, cioè, ma è un miracolo sembra... che non arriverà, non arriva. Su 180 minuti, un conto fosse stata la finale, sì. 90 minuti magari te la giochi, ma su 180 come facciamo? Ma non siamo minimamente attrezzati. Quindi lei dice che questo Milan comunque è lontano dall'Inter. È una buona squadra, lontano per carità, dall'Inter di Mourinho. Che ce la fece. Ma era molto più forte l'Inter di Mourinho. Secondo me era molto più forte, molto più compatta, molto più coriacea, con molti più fuori classe, perché l'Inter di Mourinho aveva lasciando stare Snyder, aveva un Milito strepitoso, aveva un cambiasso eccezionale al centrocampo, un grandissimo Stankovic, Mike Conn che era un fuori classe sulle fasce, due centrali. Possiamo fare tutta la formazione, possiamo fare tutta la formazione, però insomma dire con il Barcellona il Milan l'ha già data su, quindi ha già detto rischiamo Thiago Silva perché la partita con la Roma è più importante della doppia sfida con il Barcellona quando ancora si deve giocare la partita d'andata, però mi sembra un po' eccessivo. Cioè, io fossi stato Allegri non avrei rischiato uno dei miei giocatori più importanti in una partita così, tanto più che ha fatto riposare Van Bommel eccetera. Insomma, c'erano le condizioni, credo, per fare altro nonostante i troppi infortunati del Milan. Per me è un grandissimo piacere invece, oltre che ringraziare Andrea, salutare Emiliano Mondonico, nostro ospite. Buonasera a tutti voi. È davvero un piacere, però io so che con lei posso essere franco. Dalla vittoria di Sanremo a un esonero che davvero non riesco a capire, anche a settimane di distanza. Sì, ma non ci sono problemi, fa parte, cioè sono robe che capitano ai vivi, perciò di questo bisogna essere, per quello bisogna essere, far finta di niente. È chiaro che non ci sono dei perché tecnici tattici, magari ci sono altri perché che alcuni conoscono, altri come me no, però insomma succede. Facciamo finta che sia tutto normale, anche perché si parla di calcio, penso che i problemi nella vita siano ben altri. Sì, certamente, quindi ci teniamo i dubbi sia io che lei. Ma diciamo che avendo dei dubbi ognuno la può raccontare come vuole, questo è già importante. Tanto non c'è Cellino che, nonostante l'articolo 18 non sia ancora stato modificato ufficialmente, ha fatto ricorso alla giusta causa. Dopo ognuno la gira un po' come meglio e come crede. Quello che mi dispiace è che come i rapporti possono interrompersi da un giorno all'altro, ma anche il rapporto tra uomini. Cioè il giorno prima baci e abbracci, il giorno dopo magari la giusta causa per non pagarti. Siccome io credo molto invece il rapporto tra uomo e uomo, è chiaro che penso che ognuno ha i suoi perché, i suoi però, perciò riesco a far finta di capire. Dopo aver vinto Sanremo quel giorno, battuta memorabile nella stagione, che idea si è fatto sui problemi di chi Sanremo l'ha perso, cioè l'Inter? Ma l'Inter è una squadra stanca nella testa e nelle gambe. L'Inter non è una squadra che non ce la mette, che non si impegna. È chiaro che in questo momento è una squadra che ha difficoltà. La migliore Inter è quella vista col Marsiglia, e parlo di migliore Inter perché non credo che lì qualcuno abbia fatto apposta. Lì tutti hanno dato il meglio e il massimo di quello che possono fare e dare, come penso faranno questa sera con la Juve. Purtroppo in questo momento non hanno molto, non hanno molto nelle gambe, ma soprattutto nella testa, ed è molto più facile capire perché non abbiano molto nella testa piuttosto che perché sono sulle gambe. Sì, è una squadra comunque a fine ciclo. Beh, è una squadra che in questa annata chiaramente ha dimostrato soprattutto i limiti, riuscendo poche volte a nasconderli. È una squadra che rischia di star fuori dalle competizioni europee, penso che l'ultima volta sia stato il 99, e perciò rischia dopo 12 anni di rimanere fuori da tutto e da tutti. Ecco perché penso che questa sera tutti dicono che è importante per la Juve, io penso che sia più importante per l'Inter, perché penso che sia molto più giustificabile un secondo posto della Juve in campionato che non un, che un Inter fuori dall'Europa, perciò non credo tanto a tutti questi sotterfugi. Senti, io volevo un parere invece su un altro tema che è stato innescato da Sconcerti ieri su Corriere della Sera, a proposito di questa tendenza all'impiego massiccio dei giovani, che piace molto alla gente, è molto, molto populista, però io sono d'accordo con quanto Sconcerti ha scritto, non so se l'ha letto, cioè che alla fine vinci con i campioni, che sono quelli che costano molti soldi, uno per tutti Ibrahimovic, che credo sia la vera differenza poi tra il Milan e la Juventus. Tutti vogliono i giovani, tutti vogliono i giovani, però poi se non vincono si lamentano. I giovani li vogliono soprattutto le società, perché è chiaro che i giovani sono fonte, oltre che di futuro, di guadagno. Sì. Perché è chiaro che lanciare un giovane vuol dire migliorare di molto le proprie casse, vuol dire introitare un'ottima quantità di denaro. È chiaro che se le due cose vanno d'accordo, cioè i giovani e i risultati, siamo d'accordo tutti quanti. È chiaro che se impiegare i giovani magari non ti permette di fare degli ottimi risultati, perché l'esperienza in certe situazioni è molto più importante della gioventù, allora nascono i problemi. I giovani dovrebbero giocare quando non ci sono problemi. Certo. Perché i giovani hanno il problema dell'esordio, hanno il problema di mettere la maglia, hanno il problema di incominciare a sopportare un po' le tensioni. Guai se li facciamo esordire in una squadra che ha già dei problemi per conto suo. Certo, cioè aumentano a dismisura e nessuno riesce a dare il meglio di se stessi. Sentivo prima che parlavate sempre di questo Milan, il fatto di impiegare Thiago Silva, che Allegri ha fatto male. Io non credo. Io sono allenatore, sono stato allenatore dal 78, perciò cioè, ne ho vissute di situazioni dove ci sono questi infortunati. Ed è chiaro che il fatto di farlo giocare è il fatto un po' di tutti quanti. I medici danno l'ok, il giocatore vuole giocare, l'allenatore dice Thiago Silva io lo metto. Senta, io farò sempre il tifo per lei e la ringrazio. Grazie a voi. Grazie ad Emiliano Mondonico. A tempo di sport. Torniamo con gli ascoltatori Pino da Varese, Luigi da Milano, ma anche con Lotito, che sentiamo subito. Questo ve l'ho fatto la domanda a lei, così mi risponde. Di domani non vi è certezza. Ma no, chi vuole essere lieto al terzo posto con questo allenatore lo sia di domani non c'è certezza. Allora, ma sapevi Fabio Cantadori in regia, voglio dire, sicuramente la società non ha messo in discussione la presenza di Reia, questo che se le interessa, ecco questo, ecco. E dopodiché tutto il resto stavano a cacciare, ma non ha messo in discussione, serve per far dibattito, qualcosa, così parliamo di qualche cosa. No presidente, io figuri, l'ho sentito la sua mancanza tantissimo, perché insomma volevo capire un po' piacere Com'era andata a finire la storia. A me sembra, Daria, che il fatto che la Lazio è sulla breccia da molti anni, no? La continuità di risultato, la continuità di lottare sempre dal primo al quarto posto, praticamente, quinto posto, no? Questo credo che sia la qualità migliore del gruppo, dei giocatori, dell'allenatore. Devo dire, questo io non me l'aspettavo. Devo dire, io la ringrazio Mauro. Questa è la cosa migliore. Che ha accolto questo aspetto e mi auguro nel prossimo anno di poter lottare per traguardi ben più ambiziosi. Noi abbiamo una filosofia, quella di una progettualità in progress. Sicuramente quello che vogliamo il prossimo anno è accrescere il potenziale di questa squadra nei vari reparti, cosa che stiamo facendo, la stiamo allestendo, e mi auguro di rendere questa squadra ancora più competitiva attraverso l'inserimento di 3-4 ulteriori campioni che possono sicuramente aumentare il valore di questa squadra. Benissimo, presidente. Potenzialità in progress, passato da chi vuole essere lieto sia la potenzialità in progress. Luigi da Milano vuole parlare di Lazio, mi scrivono. Sì, allora Lotito parla di progetti, non è chiaro quello che dice, anche perché se il progetto è quello che si è visto al mercato di gennaio, più che un progetto mi sembra uno sfascio. Quello che manca alla Lazio è proprio un progetto. Luigi, però mi perdoni, i progetti non si fanno al mercato di gennaio. Io vedo una squadra che è terza in classifica, che stava per cacciare l'allenatore, e non riesco a capire il motivo, perché il motivo di tutto questo casino non può essere il mercato di gennaio. ripeto. Allora, il mercato di gennaio è stato uno stop ad un buon mercato di luglio. Ora, era evidente che giocando ogni tre giorni con un gennaio che era il mese cruciale per campionato Coppa Italia e Coppa UEFA, con pochi giocatori, con molti infortunati, dovevano arrivare giocatori nei reparti giusti, quindi un mediano, quindi un terzino, quindi una punta, dovevano arrivare il 2 gennaio, non che il 31 gennaio arriva Candreva che non serve assolutamente a nulla. Io ho il sospetto che il progetto di Lotito fosse un altro, e cioè compriamo il giapponese perché il giapponese ci consente di avere un altro genere di mercato, di pubblicità, sì, eccetera eccetera, e buona pace dei tifosi che magari ad andare avanti in Coppa Italia, ad andare avanti in Coppa UEFA ci avrebbero anche tenuto un minimo. Un'ultima cosa ancora, io penso che per la Lazio, per arrivare terza, posto che ha una buona squadra, manchi solo una cosa, e cioè l'allenatore. Ma perché? Reia è bravissimo a gestire le emergenze, Reia è bravissimo per una squadra con l'acqua alla gola, ma fallisce sempre quando si deve fare il salto di qualità, e questo perché adotta un sistema di gioco eccessivamente difensivo. Guardi, io non sono d'accordo su quasi nulla di quello che lei dice, mi spiace Luigi, cioè non sono d'accordo innanzitutto sul fatto che su Reia, perché mi sembra che Reia abbia fatto dei risultati eccezionali alla Lazio. Questo difensivismo io non lo noto, noto una squadra invece estremamente organizzata. Credo che quello che manchi alla Lazio per arrivare terza sia la salute di Klose, perché di questo giocatore che Lotito ha preso facendo un grande numero, perché Klose è un giocatore straordinario. Ebbene, io credo che manchi questo alla Lazio, che è in un momento di appannamento, che ha pagato per due partite l'adrenalina, l'euforia, la tensione, l'eccesso del derby, come sempre succede, che non mi sembra più brillantissima, e che in questo momento è terza in classifica da sola a quota 51. Dunque io sono tutti discorsi che francamente per una società e per una squadra, per un organico come quello della Lazio, io sono tutti discorsi che proprio non riesco a capire. Pino da Varese, buonasera. Sì, buonasera, posso parlare? Sì che può. Sì, buonasera, dottor Genta. Buonasera. Ho 57 anni, sono un vecchio tifoso della Juve. Sì. Però volevo un attimino puntualizzare tutte le storie sull'organico della Juventus, anche in relazione a quello che lei giustamente ha appena detto sulla Lazio, una società con questi mezzi e del terzo in classifica, non so cosa pretendano. La Juve ha speso 180 milioni sulla gestione Agnelli Marotta. Sì. Fornisce 16 giocatori alle nazionali, di cui 8 all'Italia e 8 all'altra nazionale. Il secondo posto è il minimo che ci si possa aspettare da una squadra di così levatura, che ha un organico un pochino inferiore al mio, ma sicuramente superiore alle altre. Conte la deve piantare di continuare a dire che arriviamo dai 37 posti e quant'altro. Beh, ma questa è realtà, però, Pino. Perdoni, perché lui non c'era. Sì. È una squadra che ha tutto questo popolo di giocatori con questi investimenti, non ci si può stupire di essere lì, se no altrimenti non si dà valore al denaro. Io faccio il dirigente di banca, però Pino, mi perdoni, allora gli anni precedenti, dove pure sono stati spesi, lei l'ha ricordato, peggio, perché ha fatto un conto ancora totale, voglio dire, ancora peggio, okay. Quindi, però ripeto, sì, davanti a degli investimenti del genere non si può continuare a dire, non lei dottore, No, lo so, ho capito Pino, però lei mi insegna che in campo non ci va l'estratto conto, e negli ultimi anni in campo non ci andava l'estratto conto, se ci andava l'estratto conto era pure meglio, visti i risultati ottenuti. Io credo che Conte stia facendo uno splendido lavoro, poi è chiaro che gli fa gioco dire un miracolo se siamo qui, siamo stati bravissimi, eccetera, eccetera. Adesso è il momento della verità per la Juventus, ma lo diciamo da tempo e lo sappiamo tutti. È il momento della verità, in cui c'è stato il sorpasso del Milan, il Milan viaggia, il Milan Ibrahimovic, che, torno a ripetere, secondo me è la vera differenza tra queste due squadre, cioè è l'ago della bilancia che può far vincere lo scudetto al Milan, che tiene in vantaggio il Milan in questo momento. Adesso è il momento della verità. La Juventus deve rimanere in scia, perché il Milan fatalmente nelle prossime due settimane qualcosa dovrà lasciare sul tappeto. Dunque, prima di tornare a battagliare gradevolmente, peraltro con gli ascoltatori, su questioni calcistiche, 800 24 0024, il numero verde, alzerei decisamente l'appeal di questa trasmissione, salutando e ringraziando Margherita Granbassi. Ciao Margherita, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Come stai? Bene, grazie, abbastanza bene, mi sto rilassando prima di iniziare una nuova, l'ennesima settimana impegnata in fisioterapia. E lo so, infatti la domanda cattiva è: cosa farai quest'estate? Quanto soffrirai quest'estate? Sicuramente dovrò ancora lavorare, perché anche se sono passati 8 mesi dall'intervento, dall'ultimo intervento che ho fatto, che è stato un intervento molto complicato e con dei tempi molto lunghi di recupero, probabilmente quest'estate dovrò ancora lavorare, però sicuramente alle Olimpiadi non ci sarò come atleta, ma magari le potrò raccontare. Le racconterai per chi? Ancora non c'è assolutamente nulla di concreto, insomma c'è qualcosa nell'aria, vedremo anche quale sarà il mio stato, non solo d'animo ma anche fisico, ovviamente quella è la cosa più importante per me in questo momento. Comunque c'è tanta TV nel tuo futuro. Ma questo non lo so, sicuramente c'è stata, ho fatto tante esperienze molto interessanti, l'ultima è stata appunto quella della conduzione della trasmissione Sirene, che è andata molto bene, mi è piaciuto molto, sono orgogliosa di aver fatto parte di un gruppo splendido che ha mostrato al pubblico qualcosa che non era mai stato visto prima. Senti Margherita, si dice che la squadra del cuore sia un po' come la mamma, non si cambia mai, tu l'hai fatto. Ma sì, diciamo che in realtà forse quando ero ragazzina non si trattava di squadre del cuore. Devo dire che tra l'altro io adesso sono juventina e quindi questa sera sicuramente seguirò la partita, però diciamo da ragazzina ho tifato per diverse squadre, forse un pochino perché mi piaceva essere diversa dal resto del gruppo, tutti i miei compagni tifavano la Juve, allora io volevo giustamente essere più originale. Giustamente. Però poi ci sono cascata anch'io alla fine. E com'è successo? Ma in realtà ho cominciato un pochino a seguire il calcio, poi indubbiamente una storia abbastanza recente, nel 2006 quando ho vinto il campionato del mondo individuale a Torino, mi sono legata ancora di più alla Juve, perché il giorno prima della gara avevo scambiato il mio fioretto con la maglia di Alex Del Piero, insomma mi ha portato fortuna. Sì. Quindi poi mi sono veramente appassionata, ho seguito spesso le partite allo stadio, quest'anno sono andata nel nuovo Juventus Stadium, mi è piaciuto tantissimo, è stato molto molto emozionante, tra l'altro abbiamo anche vinto quella partita, perché dai, ho portato anche bene. Che impressione fa quello stadio? Io non sono ancora stato, che effetto fa? Beh, un effetto particolare, si vede molto molto bene la partita e poi ovviamente il clima è diverso, cioè i tifosi sono assolutamente entusiasti ed è un entusiasmo che si percepisce anche proprio nei giocatori, nella squadra, infatti so che anche loro sono molto, insomma la sentono molto la partita e sono molto gasati quando giocano allo Juventus Stadium. Ma secondo te un secondo posto sarebbe una delusione oppure no in questa stagione? No, non credo che sarebbe una delusione, perché comunque vada, è stata una grandissima stagione, per cui io sinceramente da tifosa non sarei affatto delusa, perché ho visto finalmente rigiocare alla grande la squadra, avere grande entusiasmo, un allenatore che riesce a dare ai ragazzi evidentemente quello di cui hanno bisogno, ma insomma ovviamente per ricostruire una squadra ci vuole del tempo, è chiaro che io sono qui a tifare, a sperare che vinca, ma insomma anche se arrivassimo secondi ci siamo battuti comunque fino in fondo. Senti, voi della scherma avete vinto come nessuno nello sport italiano, ma avete fatto chiacchierare onestamente piuttosto poco, mi vengono in mente invece i ragazzi del nuoto che pure vincono però dominano anche su Novella 2000, come mai? Ma insomma per me va bene così, ecco, sono più contenta di se eventualmente i nostri articoli sono sui giornali sportive o magari appunto su altre testate giornalistiche, ma magari che parlano di cose importanti ed interessanti, insomma poi il gossip per carità se c'è può anche far bene, ma insomma dai, anche noi schermidori ce la caviamo abbastanza, mi viene in mente ovviamente il mio collega Aldo Montano, direi che ha fatto parlare fare. Beh, Aldo qualcosina ha combinato. Anche fuori della pedana. Sì, Aldo qualcosina ha combinato, in effetti, hai ragione tu. Ma tutti, però probabilmente siamo un pochino più lì nel farlo. Anche tu non hai scherzato comunque nel tuo. Anche tu non hai scherzato. Io credo che non debba essere neanche semplice portare in giro la tua bellezza sui campi sportivi. Ma no, non è vero, perché non è difficile. Ti ringrazio perché mi hai fatto indirettamente un complimento, però insomma è sicuramente qualche cosa in più che in pedana non sinceramente serve a ben poco, però fuori innegabilmente ti aiuta, insomma. Cara collega, la saluto e la ringrazio. So che... Grazie a lei. Grazie a lei. Spero che venga a trovarmi presto per parlare di sport. Va naturalmente. Benissimo. Grazie Margherita. Va benissimo, un saluto a tutti e forza Juve. Grazie. Grazie Margherita. Margherita Granbassi, questa, Gianluca da Napoli invece in linea, così come Andrea da Forlì. Gianluca, dica. Buonasera, salve. Volevo dire, Mazzarri, che qui è idolatrato, posso semplicemente fare una considerazione, una critica, sì, che pur essendo un bravissimo allenatore, per carità, non si discute, non applica un turnover adeguato e molti giocatori non hanno più un ritmo partita proprio perché giocano raramente. Vediamo ad esempio il caso di Fernandez, che ha disputato una buona partita ma purtroppo si è infortunato proprio perché non aveva il ritmo partita, così come Britos e altri tipi di giocatori. Beh, Britos è stato fuori per una vita perché ha avuto un grave infortunio, quindi è complicato. Però questa è anche la forza del Napoli. Napoli, l'abbiamo detto molte volte, è una squadra e ha una filosofia un po' sui generis, un po' anni 80, diciamo, 70, cioè 11 titolari e gli altri sono riserve. Quando Mazzarri ha fatto turnover, e mi viene in mente la prima volta che lo fece in maniera eccessiva, quella partita a Verona con il Chievo, perse la partita. Evidentemente non ritiene che la qualità che i titolari le garantiscano sia pari a quella di chi normalmente sta a guardare. È un po' la filosofia del Napoli di Mazzarri, cioè lui va con questi 11 ed è chiaro che senza i tre moschettieri là davanti il Napoli non riesce a replicare, non riesce a produrre la stessa qualità. Allora a questo punto Bigon poi ha sbagliato la campagna acquisti? No, non credo che abbia sbagliato la campagna acquisti. Punta solo su quei giocatori lì? Beh, io credo che quello che è arrivato a gennaio sia bravo davvero. Si tratta di aspettare un po', ma credo che quello che è arrivato a gennaio, cioè Vargas, possa essere il futuro del Napoli. Ripeto, il Napoli è una squadra che vive in questo modo, cioè vive anche sull'emotività di questo gruppo di titolari. Poi se stiamo a discutere la qualità dei singoli giocatori, la qualità dei singoli giocatori di una difesa che non è certamente di livello europeo, eccetera, eccetera, sono tutti discorsi che abbiamo fatto mille volte. Però il Napoli è una squadra che funziona meravigliosamente come impianto, come gruppo, e riesce addirittura ad arrivare oltre la qualità dei singoli giocatori. È un limite, è un pregio. Il Napoli è fatto così. Quando Mazzarri ha fatto eccesso di turnover, fatalmente l'ha pagato. Io credo che in questo momento non sia il caso di lasciare per il Napoli punti per strada in omaggio al turnover. Credo che debba andare così fino in fondo, e vedo il Napoli comunque come la principale candidata al terzo posto, ora in mano alla Lazio. Andrea da Forlì. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Dottor Genta? Sì, sono Andrea, grande tifoso interista. Sì. Io volevo chiederle, secondo lei, dopo Mancini, dopo il Mourinho con il famoso triplete, quanto tempo dovrà passare ancora per rivedere l'Inter? Lo chieda Moratti, vuole il numero di Moratti. Sì. No, dovrà passare ancora decenni secondo lei prima di arrivare di nuovo? Andrea, non lo so, perché i cicli dell'Inter cicli di tutti sono fisiologici, vale per l'Inter ma sono discorsi che si sono fatti anche per, lo sa benissimo, per il Barcellona, per il Real Madrid, per il Milan stesso, perché non avrà dimenticato il Milan dell'era successiva a Capello, quello del Capello bis, del Sacchi bis, di Tabarez, del Rosenborg che lo butta fuori dalla Champions League. Insomma, anche il Milan ha vissuto anni contrastanti. Non è mai semplice collegare un ciclo all'altro, non è mai così semplice. Quindi la risposta è nell'attesa, perché io non so sinceramente quali possano essere i programmi futuri dell'Inter. È chiaro che questa squadra è stremata, è finita, abbiamo sentito anche prima Mondoni, che è una squadra che non ne ha più con la testa. È giunta al fisiologico termine di un ciclo. Con coraggio si poteva capire, ammettere, perché era così che questa squadra è finita la notte di Madrid e che da quel momento andava ricostruita. Non si è avuto il cuore, non si è avuto il coraggio, non si è avuta la voglia, non si sono avuti i soldi, questo non lo so, non si è avuta la competenza, la compattezza, insomma tante componenti. L'Inter è una squadra da rifondare, da ricostituire, a partire da un uomo forte in panchina, io credo. Quale possa essere l'allenatore del futuro, questo non lo so, ma di ipotesi se ne fanno moltissime. Non credo però sinceramente Guardiola. Aldo, no, non è Aldo che mi scrive che sono cattivo perché sembro dispiaciuto che la Lazio abbia vinto, ma non vedo perché dovrei essere dispiaciuto che la Lazio abbia vinto. Non ne ho motivo, non sono nemmeno romanista, quindi la Lazio ha vinto oggi giocando non benissimo, però è stata una vittoria estremamente importante perché le ha consentito di conservare quel terzo posto da sola che per qualche minuto aveva perso a beneficio del Napoli. Bruno da Ferrara invece in linea. Sì. Buonasera. Premetto che io sono tifoso del Bologna, quindi fantastico, fuori dalla mischia. Prego? Fuori dalla mischia. Sì, fuori dalla mischia, volevo parlare della partita di stasera. Io volevo dire, dato che la Juve mi sembra un po' strumentale col suo vittimismo, con le sue lamentele, io per stasera spererei che l'arbitro gli desse un bel rigore inesistente. Ma no, ma per carità, ma poi due a favore. No, perché dopo sono sinceri nel fare il vittimismo, capito? Li ammirerei di più, cosa dice lei? Io dico che spero di no, e che spero che stasera De Marco, che non ha un compito facilissimo, arbitri bene, senza problemi, anzi sia il migliore in campo, faccio il tifo per lui. E quanto al vittimismo della Juve, in parte ha ragione, in parte è una tendenza, è un trend molto di moda nel nostro calcio, dove bastano un paio di episodi contrari e ovunque spuntano i dossier, no? E gli arbitri ce l'hanno con noi e presentiamo il dossier e non siamo tutelati e tutte queste cose che sono strumentali, e lei ha ragione, perché purtroppo nel nostro sistema pagano. E allora nel nostro sistema, che non guarda il calcio ma guarda il pulviscolo di calcio, dalla gamba tesa su Heinz al contatto che poteva esserci e che forse non c'era, a Cavani che forse non era neanche in fuorigioco come ho detto io prima, ma alla fine chi se ne frega, siamo abituati a polverizzare le partite di pallone, mica a guardarle, noi le vivisezioniamo e vediamo quello che ci pare. Secondo me ieri il Milan, al di là della gamba tesa su Heinz, ha vinto meritatamente la partita con la Roma, che non ha giocato una gran gara. Ha un fuoriclasse che è Ibrahimovic, che in queste partite nel campionato italiano lo prende per i capelli e lo tira fuori dalle sabbie mobili ogni volta che ci cade, e il senso che vedo io è questo. Quindi mi auguro invece che questa sera De Marco sia il migliore in campo e poi che tra le altre due succeda quello che deve succedere. Claudio da Trento. Ciao, buonasera. Buonasera. Io volevo solo fare una valutazione sulle cose che sono state dette prima per l'impiego di Thiago Silva ieri sera da parte di Allegri. Secondo me ha fatto benissimo a schierarlo, perché logicamente la partita era molto temuta, no? Anche perché, diciamocela tutta, secondo me non eravamo all'altezza comunque di vincere la Champions. Non c'è solo Real Madrid che è superiore a noi. No, ma Claudio, sono d'accordo, però a logica sono d'accordo sul fatto che la partita con la Roma fosse molto importante, però arriva a tre giorni dalla gara di andata con il Barcellona. Thiago Silva, è inutile stare a ripetere quanto importanza abbia, perché saremo solo ridicoli. Io personalmente non l'avrei rischiato, cioè me lo sarei tenuto per il Barcellona, anche se poi l'emergenza era evidente, me lo sarei tenuto per il Barcellona per giocarmela comunque fino in fondo contro il Barcellona, no? Per giocarmela fino in fondo, secondo me senza Thiago Silva, insomma, cambia molto, non è che cambia poco nel doppio confronto. Volevo solo dirmi questo anche, i tifosi, profondi tifosi milanisti da tanti anni, non so cosa gradiscano di più, se rivincere una Coppa dei Campioni o far arrivare la Juventus seconda in campionato, che sarebbe molto molto gradito da parte di tutti noi. Sì. E speriamo che finisca così. Vabbè, speriamo che, questo è un augurio che lei gira ai suoi colleghi di tifo. Mauro da Imperia, poi Mirko da Bari. Salve, buonasera. Buonasera, Mauro. Lei dice spesso, a parte che la questione di Thiago Silva, io penso che Allegri sapeva di rischiarlo, ma ha maggior ragione. Ha voluto provarlo, secondo me, lo provava un tempo e poi vedeva se reggeva, lo sapeva se l'aveva mercoledì o no. Ma sa, secondo me non si rischia a punte basta, con un giocatore di quella importanza, non si rischia a punte basta. Rimanere dopo 10 minuti col Barcellona senza un difensore, secondo me, era peggio che rimanerci contro la Roma, però... La differenza principale è Ibrahimovic, ma non solo, perché la difesa del Milan è guidata appunto da un fuoriclasse come Thiago Silva, da un Nesta che gioca poco, va bene, però c'è un eccesso, cioè la Juve c'ha Chiellini, Bonucci. Ho capito, però vede che cade in contraddizione, perché la Juventus è la miglior difesa del campionato. Sì, ma loro finora hanno reso al 110%, il Milan sta giocando all'80% delle proprie possibilità, anche grazie agli infortuni, non gli manca Cassano, Robinho, cioè giocatori che secondo me sono solo a livello di portiere e di un uomo in centrocampo, che fra l'altro gli abbiamo dato noi, perché da noi ne abbiamo da Seedorf di classe, ne abbiamo anche altri, sì. Ma la Juve ha solo quello di classe, cioè... Ma a maggior ragione, guardi, Mauro, a maggior ragione la Juventus secondo me dal punto di vista complessivo, lo ripeto, è più debole del Milan, non inutile stare a sottolinearlo tutte le volte. Credo che sia stata bravissima, essendo dal punto di vista organico inferiore al Milan, comunque ad arrivare lì dov'è e a continuare a tenere il Milan sotto pressione e a mettersi al primo posto sotto la finestra. Se la favorita, quella che è stata fin dall'inizio di questa stagione la grande favorita, deciderà o non riuscirà a mantenere lo scudetto. A maggior ragione lei sottolinea come da un punto di vista dell'organico e Thiago Silva e Nesta quando c'è MXS eccetera, il Milan sia superiore, eppure la Juventus, e questo va a merito di Conte, della sua organizzazione e dei giocatori che interpretano perfettamente questo tipo di gioco, è la difesa meno battuta, al di là di un grande portiere, però vuol dire che è l'intera squadra che lavora in funzione di questi risultati. È un po' il discorso che vale per il Napoli. Sono d'accordo sul fatto che Aronica e Cannavaro e Campagnaro non siano a livello di, insomma, di ad alto livello europeo, non siano giocatori da top team di europeo. A maggior ragione il Napoli quando funziona di gol ne prende pochi. Mirko, buonasera. Buonasera dottore, grazie per lo spazio. Grazie a lei. Che mi stai dando. Dica. Volevo intervenire sulla partita di stasera Juventus-Inter. Io innanzitutto premetto che sono un tifoso del Bari, quindi sono ancora fuori dal coro. Quindi volevo dire, io secondo me dico che sarà la partita decisiva per l'Inter perché per l'orgoglio, mentre decisiva per la Juve per quanto riguarda lo scudetto, chiaramente. Un'ultima domanda, poi volevo sapere sul calcio scommesse, il Bari, quanto è mezzo? È parecchio in mezzo? Oppure ci saranno altre cose che... Lì a Bari cosa si dice? Qua ci dicono che la situazione è triste, a parte la presidenza, che manca gli stipendi, tutte queste cose qui. Sì. E poi c'è questo ombra, questo ce lo diranno, non mi sembra messo benissimo, però aspettiamo la parola dei magistrati di Cremona e di altri. Insomma, mi sembra messo messo poi benissimo il Bari, però vediamo, insomma, qui si pronunceranno i magistrati, è compito loro. Stefano da Milano, buonasera. Sì, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io volevo riintervenire su quanto detto prima riguardo la differenza tra il Milan e la Juve, che consisterebbe principalmente in Ibrahimovic. Io sono d'accordo solo in parte, nel senso che comunque, a mio giudizio, io per carità sarò di parte essendo appunto tifoso milanista, credo che il Milan abbia in questo momento un organico superiore anche in altri ruoli. Molti si parla di Thiago Silva. Allora io però le faccio una domanda, Stefano. Sì. Se Ibrahimovic giocasse nella Juventus e Matri nel Milan, chi sarebbe in testa alla classifica secondo lei? È chiaro che è un discorso stupido, è ipotetico. No, è un discorso stupido e sono d'accordo. Io le posso dire che se alla Juve ci fosse Ibrahimovic, sicuramente la Juve avrebbe più punti. Il problema è che probabilmente il Milan ne avrebbe di meno. Io su questo sono d'accordo. Però il Milan secondo me quest'anno ha avuto la fortuna, il merito anche di trovare in un giocatore come Nocerino, che l'anno prossimo non la fa più una stagione come quella di quest'anno, un giocatore che ha saputo secondo me segnare dei gol decisivi. E secondo me il Milan ha, forse viene sottovalutato, magari mi sbaglio io, il centrocampo del Milan, che non è un centrocampo spettacolare, non è un centrocampo tecnico con la T maiuscola, però giocatori come Nocerino, Van Bommel, lo stesso Muntari rigenerato, sono giocatori che secondo me hanno il merito di coprire una difesa che, tolto Thiago Silva, è una difesa che, sono d'accordo, è traballante. E certamente con il Barcellona, se il Milan prima aveva poche speranze, adesso neanche di meno. Sono d'accordo sul fatto che sì, certo, lei mi dice, se Matri fosse al Milan e Ibrahimovic fosse... Questo è il senso del mio discorso, che è un discorso, anche se vogliamo, da prima elementare, però io sono convinto del fatto, Ibrahimovic per dire, però che alla Juventus quello che manca è il giocatore in grado di risolvere tutto con come fa Ibrahimovic, con un colpo, caricandosi la squadra sulle spalle, segnando nel momento in cui sei in difficoltà. No, la Juventus deve giocare al 110% comunque e sempre, no? Adesso è chiaro che ha trovato Vucinic, che è l'unico giocatore che ha in parte queste caratteristiche, cioè quello di in quest'ultimo mese, perché se andiamo a vedere allora... e lo so, però prima aveva trovato, lei ha parlato di gol di Nocerino, io le dico che prima aveva trovato i gol di Pepe, che ne ha fatti tanti, aveva trovato i gol di Marchisio, che ne ha fatti tanti, certo. e dunque siamo sempre lì. Ecco, se, comunque, anche quando io parlo di organico, lei giustamente, poi chiudo, però ecco la cosa di Ibrahimovic, l'organico della Juve, la Juve davanti, a parte Matri, che è un signor giocatore secondo me nel panorama calcistico dei calciatori italiani, degli attaccanti italiani, gente come Borriello, poi magari stasera Borriello gioca e fa 4 gol, e Del Piero non utilizzato, che comunque fa parte del parco giocatori della Juve, tutto. La Juve ha 5 attaccanti, di cui efficaci probabilmente Matri e Vucinic in questo momento. Sì. E il Milan effettivamente sì, ha un uomo che da solo fa il reparto, è anche vero che quando non ha giocato, comunque per tanti motivi, fortuna, merito e quant'altro, ha Udine, a Cesena. Io ho sentito, no, certo, il Milan è riuscito a comunque a resistere all'assenza di Ibrahimovic, anche se mi facevano molto ridere quei discorsi secondo i quali c'era da giocare la partita, c'era da giocare il derby, dicevano, ma forse meglio giocarlo senza Ibra, perché Ibrahimovic e poi tutti gli altri. Cioè, quello che dico è che alla fine dei conti, magari è un discorso forzato o è un discorso da baro da prima elementare, con Ibrahimovic alla Juventus e Matri al Milan, io credo che oggi la Juventus sarebbe a quota 63 e il Milan a 56. La butto lì, dato che mi dedico spesso a buone letture, leggendo Filippo Manerici sulla Gazzetta dello Sport di oggi, ho già scoperto chi è il futuro allenatore del Real Madrid, cioè Zinedine Zidane. No, non esageriamo, c'è un grosso punto interrogativo, però per me non è stato casuale questa uscita ieri. Zidane, che non fa mai un'intervista, va a fare un'intervista in Francia e dice sì, prima o poi alleno. Ah, cioè, ma non è un allenatore? No, non so neanche se c'è il patentino. Non credo. Però io leggo questo, penso a Florentino e dico, sì, a Florentino piacerebbe molto. Sì, Cioè, perché se ne va a Mourinho, prima cosa ovviamente, no, qui tutto bruciato, quindi insomma ci vuole un bel giardiniere, anche con un certo carisma, un certo peso, e chi chiamiamo? Zinedine. No, mi sembra, potrebbe essere, non lo so, insomma, vediamo come va a finire. è prematuro, però non mi è sembrato casuale questa uscita. Tanto però nervi distesi, tutti tranquilli a giocare contro l'Apoel dopo che... Beh, nervi distesi un po' troppo. Nervi distesi al Real, forse ho detto una stupidaggine io. Insomma, cioè, forse un po' esagerato. Sì. Però no, almeno perché... un po' più, han preso un po' di vagli, un po'. 5 sì, gol, 5 sì, gol per un po' di... La manita di camomilla. Per calmare un po' i nervi. Però appunto, poi come si reagisce alla manita? Con silenzio stampa. Sì, ma per favore, no. Motivato, non so. Motivato da? Dice perché c'è la congiura, c'è una enorme congiura. Congiura planetaria. Sì. Contro? Tra l'altro è anche storica. Contro chi? Il Real Madrid, quella piccola squadra. Real Madrid, con la maglia bianca. Il Real Madrid tutto intero o una parte del Real Madrid? No, Real Madrid, perché è una congiura contro l'entità, contro la Casa Blanca. Ah, capisco. Quindi sono, no? Giochi di potere, giochi sì, politici. Sì. Cioè, conta che si lamentano. Allora, vanno a giocare col Villarreal, una squadra che ha fatto un punto in 5 partite. Tre allenatori quest'anno. Tipo l'ultimo gol forse l'ha fatto Giuseppe Rossi quando era ancora sano. Sì. E se segnano, rischiano di fare altri 2-3 gol e alla fine punizione, prendono gol. Mancano 10 minuti, invece di cominciare a urlare, a fare scene isteriche, a farsi espellere in massa, potevano perfettamente raddrizzare la partita. Dopodiché l'arbitro, l'unica cosa, e parlo di quello che dice Marca, l'unico torto dell'arbitro è non aver segnalato due rigori al Villarreal. Certo. Ma sai, ormai avrai imparato anche tu che con Mourinho la forza dei nervi distesi non fa parte del gioco. Sì, si vive però in un'altra maniera. Mi ricordo, scusa, non era così quando lui va a quel grande vantaggio sulla Roma, no? Sì. E poi rischia di perdere il titolo, poi lo vince. E c'è la famosa frase: non succede, ma se succede, no? Certo. Qua siamo più o meno non passa. Però senti, passa. Dimmi una cosa, perché me lo chiede un ascoltatore. Cioè, ho un messaggio per te. Mi scrive: ma davvero a Barcellona hanno paura del Milan? O è nella loro rubrica la lettera F, quella di fastidio? I tifosi cosa dicono? No, i tifosi no, il tifoso spagnolo in generale è abbastanza borioso e abbastanza convinto dei propri mezzi. Però Guardiola continua a mandare messaggi di un certo tipo. Allora, io non so se il discorso è come quello di Lidl con la Cavese, te lo ricordi? Sì, è indimenticabile, come faccio a dimenticarlo? Quindi non so se grida al lupo così tanto per farlo. Però Guardiola lancia messaggi di sincera preoccupazione. E io me li prendo questi messaggi, perché comunque il Milan per me le sue chance le ha. Sì, le ha, sono diminuite di molto ieri sera quando Thiago Silva si è toccato la gamba. E oggi la discussione è ma ha fatto bene o ha fatto male Allegri a rischiarlo a 3 giorni? E alcuni dicono: ma Allegri l'ha già data su, come dicono a Bologna, sa che con il Barcellona non si passa, la gara importante era quella con la Roma. E no, allora Thiago Silva quando... Mi dispiace, perché bisogna... se il Milan dovesse passare sarebbe veramente un miracolo, a me farebbe molto piacere. Con tutto che io quando ero ragazzino ti favo un'altra squadra. Vabbè, però non mi interessa assolutamente. Scusami. Bisogna andare avanti. Già abbiamo perso un'enorme occasione, dovevamo avere 3 squadre in questa Champions, ne abbiamo solo una. Guarda, io ti dico, alla fine quasi tutto dipende da Ibra. Sono d'accordo, ma guarda, io penso che al Milan serva finalmente una serata magica di Ibrahimovic in un grande confronto europeo. In un grande confronto europeo, naturalmente, perché sennò sono all'ordine del giorno. E poi una gara di grande sacrificio, di grande sofferenza al Camp Nou, come è stata la partita inaugurale di questa Champions League, quel famoso 2-2 siglato, guarda caso, dal giocatore che mancherà. Quindi credo che la strada non possa che essere questa, molto difficile, però non così impossibile da rinunciarci prima ancora di giocare la partita di andata. Barcellona, voglio dire, no, 8 vittorie di fila, Messi 55 gol, allora se la metti così, no? Sì, se la metti così non giochi neanche. Se la metti così non giochi neanche. Però il Milan è una squadra che in difesa commette degli errori, si distrae, Piqué non è in una grandissima forma, Dani Alves lo puoi sorprendere, Insomma, qualcosina, direi che qualcosina quantomeno si può tentare di fare senza rinunciarci del tutto. Per questo io dico, secondo me è stato un errore quello di ieri di Allegri. Filippo, ti ringrazio. A voi un abbraccio grande. Grazie a Filippo Maria Ricci. Luigi da Milano, poi Gian Pietro da Verona. Luigi, dica. Sì, buonasera. Senta, buonasera. Io sono un tifoso juventino. Ho ascoltato, ribadisco in realtà che il Milan ha un organico secondo me superiore a quello della Juventus, anche se tutto sommato non vedo questo Ibrahimovic così strepitoso come tutti vedono, onestamente, anche se ha fatto una caterva di gol. In effetti, se togliamo gli 8 calci di rigore, probabilmente ha segnato come Matri, ecco, non è... Beh, insomma, adesso non esageriamo. Se vuol far cambio, secondo me, alla Juventus sono d'accordo, cioè alla Juventus ci stanno a fare cambio Matri, Ibra alla pari. No, Luigi, non scherziamo, cioè Ibrahimovic fa tutta la differenza del mondo, al di là dei 22, lei ha ragione, con 8 rigori, però 22 sono tanti e soprattutto negli ultimi due mesi sinceramente ha risolto quasi tutti i problemi in campionato del Milan da solo, quindi io credo che la grande differenza sia questa qui, cioè, ma d'altra parte è un giocatore che sono 12 anni consecutivi che vince lo scudetto, fate voi, insomma, non può essere sempre un caso che si ripete 12 volte. Gian Pietro, Verona, buonasera. Buonasera, però io non sono d'accordo con certi discorsi che fa lei, nel senso che è chiaro che se togli Ibrahimovic al Milan, lo mette alla Juventus, allora io tolgo Pirlo alla Juventus. No, infatti stiamo parlando, vabbè. No, voglio dire, se mi lascia parlare, sì. Voglio dire, mettiamo Messi al Milan, cioè il Milan è questo, sì. Mancano 12, manca quasi sempre Boateng, manca Robinho, manca Pato, mancano altri giocatori. Cassano. Esatto, cioè voglio dire, se mi togli anche Ibrahimovic, è chiaro che poi Ibrahimovic è un giocatore importante che però l'anno scorso, lei ben si ricorda, negli ultimi tre mesi non ci ha fatto vincere il campionato perché è sparito, sì. E sono stati gli altri. Sì. Il Milan è una squadra forte che ha in Ibrahimovic il suo leader indiscusso, quindi certamente il Milan è una squadra forte, ma che discorsi? Il Milan è una squadra che, mi tocca ripetere un'altra volta, ha un organico più forte di quello della Juventus, ma questo lo sappiamo fin da agosto, quando ancora non era iniziato il campionato. Torno a ripetere, in un organico forte in cui il leader assoluto, tecnico ed emotivo è Zlatan Ibrahimovic, che è uno che da 12 anni vince lo scudetto in qualunque squadra giochi. Ci troviamo qui, ma torniamo alle 20:30 con il basket. Fabio Cantadone in regia, Giorgio De Luca in redazione. A più tardi.